È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par de scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore. Buonasera Radio Wombati. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fa in maniera. Te fammi un sogno a prima sera. Tutte insieme. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone. Per la diretta speciale del martedì sera 19.02 sulle frequenze di Radio Wombat, in compagnia fino alle 20.30. Camicia, che Camicia oggi addirittura suonerà dal vivo con il Super Korg. Grazie Camicia. Ciao, buonasera a tutte e tutte. È difficile parlare tipo al piano bar, però ci proverò. Siamo al calduccio qui dopo tanti giorni di pioggia, anzi due o tre giorni di pioggia, siamo così, abbiamo deciso di riscaldarci di nuovo e stiamo cuocendo intorno alla stufa, ma sono le 19.03 e siete in streaming Wombat. Come sempre, Carmine e Camicia, il martedì sera di cosa parleremo oggi? Allora, faremo un velocissimo approfondimento sulla task force che abbiamo iniziato la scorsa puntata ad approfondire. Avremo poi l'intervento di un caro amico avvocato che ci spiegherà l'assurdità anche dal punto di vista giuridico dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Avremo poi in diretta un grande ospite, in diretta telefonica, che ci darà preziosi consigli, soprattutto per coloro che sono ormai costretti a questa vicinanza forzata o in comunità o in coppia, in questa situazione difficile di restrizioni. E se ci rimane un po' di tempo, vorremmo anche provare ad approfondire il tema dei danni della didattica a distanza. Ma partiamo subito con un brano? Non mi sono scordata di niente? Secondo me ti sei scordata che oggi siamo entrati nel toro. Il segno del toro è qua il miglior segno in questo momento, segno fisso di terra, perfetto direi per la quarantena, no Carmine? Sì, ma soprattutto che finalmente abbiamo due microfoni. Esatto, infatti voi sentirete questa voce che io posso modificare in mille modi. Anche a dire cose così, perché ho collegato il Korg con tutto il sistema super radiofonico che abbiamo qui dalla Val di Susa nella nostra bella casettina, e quindi oggi finalmente riusciamo a fare una diretta con due microfoni, ma soprattutto con questa fastidiosissima base musicale di Camicia che ogni tanto metterò con la tastiera. E poi c'è un altro appunto che vorrei fare riguardo a una informazione tecnica, ovvero è molto probabile, succede spesso, che se ne vada a un certo punto il segnale perché cambia il vento e qui per qualche minuto non c'è rete. In quel caso sentirete scomparire la nostra voce e tornare probabilmente forse la musica che c'è nella sbobina di Wombat. Non preoccupatevi, perché nel giro di un minuto torneremo ovviamente in streaming, quindi rimanete connessi. Non penso sia un problema vostro, semmai è un problema nostro. Prontissime per il primo pezzo della serata, alla rovescia, radici nel cemento. Hey! ce ne sa un altro che gli servo da stai. Aprimo tutte le banche e li vanno da quell'altro invece no, non li vedrà mai. E c'è sta quello che è finito in galera, però nessuno ha fatto mai male. Ma invece libero come un uccello, se ne va in giro pure il pezzo criminale. Quell'altro invece che lavora pure instancabilmente, quando viene sera quasi quasi ma non si magna, c'è un amico molto serio e preparato e un altro solo con la raccomandazione. Io solo ferito, bello sistemato, quell'altro langue nella disoccupazione. Pare che vabbè, ho appena scoperto una cosa esilarante. Praticamente noi abbiamo la possibilità di comunicare con gli altri wombati in diretta con dei messaggini segreti. Siamo alla 20ª diretta, ascoltatrici e ascoltatori. E ho appena scoperto che in realtà non è una cosa interna, ma chiunque di voi in questo momento volesse mandarci un messaggio può farlo semplicemente accedendo al sito. E ci hanno appena scritto i nostri cari amici Kiki e Tom, che salutiamo. Ciao. Direttamente dalla fattoria della sussistenza o dell'autosufficienza, la seconda, dirsi voglia. Ok. L'autarchia, la fattoria del... Ciao Kiki e Tom, grazie per essere qui con noi. Vabbè, ne approfitto per salutare anche le compagne e compagni della comunità di resistenza contadina Girolamo. Fai bene, saluta tutte. E a tutte le ascoltatrici che in questo momento in diretta vi diciamo, perché abbiamo anche un'altra piattaforma, ci dice che siete ben 18.000, il 1.000 ce l'aggiungo sempre io, però 18.000 che ascoltatrici. Cavalli. Eccola. Allora, via, possiamo già andare subito al primo tema della giornata, ovvero la schizofrenia nell'assetto giuridico e costituzionale che abbiamo potuto osservare in questo mese e mezzo. Abbiamo rinvenuto una bellissima intervista fatta all'avvocato amico Giovanni Conticelli per una teleconferenza organizzata su YouTube dal CPA, il Centro Sociale di Firenze. E abbiamo trovato delle sue parole molto interessanti, perché chiarificano un po' quello che è successo in questi mesi con tutti questi DPCM, decreti legislativi eccetera, e fa capire un po' appunto quello che come si sono susseguite le vicende dal punto di vista giuridico, che cos'è lo stato d'emergenza eccetera. L'intervista è molto lunga, l'abbiamo divisa in tre parti, la prima la mandiamo oggi, le prossime le ascolterete nei prossimi giorni. Questo perché nelle dirette Wombat sempre diamo un po' spazio ovviamente all'attualità di politica, a qualche informazione utile per capirci meglio per vedere e capire quello che sta succedendo intorno a noi, e poi perché abbiamo promesso già da un paio di puntate, insomma, di sottolineare quelli che sono, ecco, tutti gli escamotage politici che vengono messi in campo adesso, giusto per dover di cronaca. Quindi settimana scorsa abbiamo parlato dei 17 di Conte, esatto, della A-Team di Conte. Ho letto oggi un bell'articolo sul sussidiario, che un po' pone il problema, diciamo, sulla quanto è politico l'intervento di questa task force, ovvero si sta cercando di capire se questa task force dà dei consigli a dei politici, a un Conte che poi mette in pratica le cose, a un Parlamento che poi mette in pratica le cose, o se proprio loro decidono, come se fosse un paragoverno tecnico, le prossime misure. Per ora sembra un po' la seconda, tanto che l'articolo finisce con: siamo quindi di fronte a una sorta di cortocircuito. Gli organi politici tentano di spogliarsi delle proprie responsabilità per affidarlo a un soggetto che non ne può avere alcuna, perché è un soggetto di tecnici. È una sorta di breakdown del sistema, appunto. Ma soprattutto abbiamo scoperto che i numerosi sociologi e psicologi elencati e citati da Conte sono pari a uno. Tutti gli altri sono giuristi, imprenditori ed esperti di economia e finanza. Sì, a far capire bene ovviamente che la fase 2 sarà più che altro per attutire l'impatto sulle grandi imprese, sulle banche e poco in realtà sulla salute o sugli altri aspetti che spereremmo di vedere sul piatto e sul tavolo delle discussioni, ma speriamo poi che nella fase 3 ci sia questa illuminazione, ma probabilmente nella fase 3 milioni ci sarà un'illuminazione. Dici te, Carmine, sei te la regista. Direi oggi di partire col contributo del buon Gio. Allora andiamo, dura 10 minuti, ascoltatelo attentamente perché è veramente chiaro non di parte. Ovviamente siamo assolutamente obiettivi giornalisti, e quindi vai, buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti. Volevo iniziare il mio intervento affrontando la questione della normativa che si sta susseguendo in questi giorni, però un paio di appunti dal punto di vista prettamente giuridico alle modalità con le quali siamo arrivati in questa situazione le vorrei fare. A mio avviso occorre bene centrare una questione che è preminente. Nel nostro ordinamento i costituenti hanno espressamente escluso, e siamo uno dei pochissimi stati in Europa, la possibilità di dichiarare uno stato di eccezione, uno stato di emergenza. La nostra Costituzione è una delle pochissime che non prevede a livello costituzionale una dichiarazione di stato di emergenza o di eccezione. Questa aveva una ragione, e la ragione, una delle ragioni nel dibattito parlamentare all'Assemblea Costituente fu proprio quella di ritenere che una sospensione dei diritti prevista già in Costituzione potesse già di per sé essere una contraddizione intrinseca. L'unico momento nel quale la Costituzione parla di misure straordinarie è la dichiarazione dello stato di guerra. È l'unico caso nel quale, con un'apposita procedura, le Camere, dichiarando lo stato di guerra, attribuiscono e conferiscono specifici poteri al governo. Altrimenti, nel nostro ordinamento, a livello costituzionale, non è prevista la possibilità di dichiarare uno stato di eccezione che determini sospensione dei diritti. Chiunque, e in particolare gli esecutivi, quindi i governi, che si susseguono, devono prendere atto di questo e devono quindi muoversi entro i binari della Costituzione, anche quando procedono a limitazione dei diritti. Perché la Costituzione poi al suo interno, nelle singole sue parti, nelle singole sue articolazioni, prevede delle specifiche situazioni di eccezionalità tali da poter permettere e legittimare una compressione. Questa premessa è utile per comprendere poi quello che è avvenuto nei fatti. Noi abbiamo assistito alla emanazione di un primo decreto legge nel febbraio, era il decreto legge del 23 febbraio, numero 6, col quale il governo ha indicato una serie di misure che dovevano essere adottate, che potevano essere adottate, una elencazione che determinassero una compressione dei diritti di circolazione, del diritto di circolazione in particolare, quindi la impossibilità di muoversi dai comuni o di fare ingresso o di farvi uscita. Ovviamente erano poi limitati alle prime zone rosse, quelle in cui la fase emergenziale sanitaria era conclamata nell'immediato. Il quadro di questo decreto legge del numero 6 del 2020 quindi prevedeva la possibilità per il governo, attraverso successivi DPCM, quindi atti amministrativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di poter, nello specifico, poi applicare a singole parti del territorio o al territorio nazionale quelle misure che erano indicate in decreto legge. Quindi una fonte normativa di rango primario, un decreto legge, che poi poteva essere applicato in maniera variabile nel territorio nazionale in base all'andamento epidemiologico. Da lì, tuttavia, si è creata un'anomalia costituzionale. Cioè, se i primi decreti hanno applicato a zone territoriali definite queste misure limitative della libertà personale, così come previsto dal decreto legge, con i successivi e famosi DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, si è superato, a mio avviso, i limiti costituzionali previsti. Perché? Perché con quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in via amministrativa, si è disposto non solo i divieti di spostamento tra un comune all'altro, ma l'obbligo di permanenza domiciliare sostanzialmente, cioè il divieto di spostamento non solo tra comuni, ma all'interno del comune. Questa ulteriore compressione del diritto di circolazione non era sorretta da alcuna fonte normativa primaria, cioè esulava dai poteri che il decreto legge originario aveva attribuito e aveva stabilito in via generale. A quello dell'8 marzo che applicava il divieto di spostamento ad alcuni ambiti territoriali e susseguito poi quello del 9 marzo, il giorno dopo, che come ricordiamo ha esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di spostamento anche all'interno del comune senza giustificato motivo, e nello stesso decreto DPCM del 9 marzo c'è stato anche il divieto di assembramento espressamente stabilito, quindi non solo più il divieto di, cioè l'obbligo di mantenere le distanze, ma proprio il divieto di assembramento. Col DPCM, quindi altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in via amministrativa dell'11 marzo, si è stabilito poi la sospensione delle attività economiche. Ora, questo quadro ci dice che cosa? Si dice che l'esecutivo ha proceduto a una compressione dei diritti, in particolare di movimento, di diritto di circolazione articolo 16, ma diritto di riunione articolo 17, abbiamo anche la compressione del diritto di iniziativa economica, libertà di iniziativa economica articolo 41 della Costituzione, attraverso atti amministrativi, senza fare ricorso a quello che era lo strumento che la Costituzione impone, il decreto legge o altro atto di fonte primaria, quindi o legge o decreto legislativo. La questione non è meramente teorica, o un esercizio di stile da giuristi. È una questione che ha delle conseguenze rilevanti, proprio in assonanza con quello che tu Andrea diceva in introduzione. Cioè, procedere a colpi di DPCM, quindi di atti amministrativi che possono essere impugnabili di fronte al TAR, ma che non hanno forza di legge, sono normative secondarie, ha determinato sostanzialmente una deparlamentarizzazione della crisi, un accentramento, come spesso accade, dei poteri nelle mani dell'esecutivo, che tuttavia ha proceduto con provvedimenti che non prevedevano poi l'interlocuzione nemmeno successiva del Parlamento, cioè dell'organo rappresentativo del popolo, in forma rappresentativa e quindi espressione della democrazia. Quindi è vero che abbiamo assistito, seppur ovviamente in una situazione di grande emergenza, perché la dichiarazione di emergenza esiste ai sensi della normativa della protezione civile, stiamo attenti, ma non è una è questione diversa rispetto a una dichiarazione di stato di emergenza o stato di eccezione a livello costituzionale. Quindi una situazione di emergenza sanitaria sicuramente, ma si è proceduto, a mio avviso, con provvedimenti normativi nei fatti incostituzionali o che scontavano sicuramente un vizio di costituzionalità. Questo ha trovato, come dire, una consacrazione ufficiale nelle stesse azioni del governo, perché dopo alcuni giorni, con il famoso decreto legge 19 del 25 marzo, che cosa ha fatto il governo? Quindi decreto legge, atto normativo, fonte primaria, ha recuperato tutto quello che aveva stabilito e scritto nei DPCM, che erano, come dire, extraordinem rispetto a quello che il primo decreto legge a monte aveva stabilito, li ha recuperati e li ha reinseriti nel testo normativo, facendo salvo tutto quello che era accaduto a precedenza. Questo è, come dire, la testimonianza del fatto che probabilmente qualche sbavatura costituzionale vi era stata. In questo stesso ultimo decreto legge del 25 marzo 19 2020, poi si è depenalizzata la sanzione penale in una sanzione amministrativa. Questo ha, ha Sicuramente una molteplici ragioni. Una è quella, come ha detto Sauro poco fa, di non ingolfare i tribunali e le procure perché erano migliaia i procedimenti che in pochi giorni si stavano affastellando, ma un'altra è probabilmente il fatto che non vi sarebbe stata una tenuta effettiva nelle aule di tribunale di denunce e procedimenti penali elevati senza 650 sulla base di quei DPCM già emanati in precedenza che non avevano una copertura costituzionale. Io, dato questi come dire, riferimenti cronologico-normativi, mi permetto di effettuare una prima considerazione. Noi siamo un paese veramente strano e curioso. Perché? Perché quando noi non abbiamo le emergenze le costruiamo per intervenire spesso con atti normativi d'urgenza, appunto il decreto-legge, a regolamentare settori con spesso misure molto avanzate in termini repressivi. Io sto pensando in particolare agli interventi che sono stati effettuati nel mondo delle manifestazioni sportive. Ora, invece, che siamo davvero nella fase di assoluta estrema necessità e urgenza di dover legiferare, quindi saremo nella condizione tale di scuola, come si dice, no? La condizione che si insegna agli studenti all'università. Quando è che il governo potrebbe utilizzare il decreto-legge? Quando avviene un evento una gravità assoluta, imprevedibile, e non può aspettare i tempi del Parlamento per legiferare. Interviene immediatamente. Ed è il motivo per il quale i costituenti hanno stabilito proprio la figura del decreto-legge nel nostro ordinamento. Il decreto-legge, la figura della possibilità di emanare atti normativi di fonte primaria da parte dell'esecutivo in via diretta, l'abbiamo solo noi e la Spagna. Sono gli unici due stati in Europa che prevedono e attribuiscono all'esecutivo la possibilità di legiferare in via diretta e immediata, salvo poi la convenzione del Parlamento. Questo era proprio perché non avendo uno stato di eccezione e non avendo poteri straordinari, il governo in questo modo poteva intervenire con urgenza. Ecco, in una situazione di questo genere, invece il governo, salvo il primo decreto legge di febbraio, per un mese poi non ha utilizzato lo strumento ordinario previsto dalla Costituzione, che doveva essere invece utilizzato, il decreto legge, anche per poter porre in essere quelle restrizioni delle libertà fondamentali necessitate dalla situazione di urgenza, ma che avrebbero e che permesso e che permettono la possibilità poi di avere un passaggio parlamentare. Quindi siamo davvero in una schizofrenia, a mio avviso, dell'assetto giuridico e costituzionale. Quando non ci sono le condizioni di emergenza si utilizza il decreto legge. Quando avviene situazione reale di emergenza non si utilizza il decreto-legge, ma si utilizzano atti amministrativi, DPCM. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro tantissimo la Super Pat che ci ha scritto in diretta. Pat, compagna del movimento NoTav, Giulino Valsusino, creatrice della rivoluzione Vien Mangiando, e ci scrive a proposito della task force di cui parlavamo prima. Stiamo pure tutte tranquille. La task force al testosterone lavora per noi. Avremo forti incentivi all'uso delle auto private, avremo il 5G che renderà tutto più semplice, potremo addirittura accendere il forno e il boiler dall'ufficio. La velocità è la nuova parola d'ordine. Ma non è già da un po' che ce la menano? I lavori per il TAV sono ripartiti e io, povera ignorante che pensavo che si occupassero di trovare il modo di rendere gratuiti i mezzi pubblici proprio per abbattere l'uso delle auto private. O anche che ci dicessero che il 5G sarà testato ulteriormente fino alla certezza del rischio assente. O anche che prevedessero modifiche sostanziali per gli allevamenti intensivi. E sono le prime robe che mi vengono in mente senza pensarci troppo. Invece, evidentemente mi sbagliavo di brutto, perché sti maschi hanno di sicuro la visione illuminata che ci serve per uscire dalla corona crisi. Stiamo pure tranquille, certo. Grazie Pat per il tuo contributo. Mandiamo un altro pezzo con Orel, cantautrice, musicista, suona chitarra, basso e contrabbasso e presenta i suoi inediti in italiano e in inglese con atmosfere acustiche, rock, jazz e quasi pop sperimentale. fare tempi che non ho vissuto mai e mai vivrò. Penso quanto sia incantevole, dopo un lungo pianto, riuscire a vedere le stesse cose da un altro punto dello stesso globo. Ci scrivono sul pad e noi leggiamo quello che ci scrivete. Il pad lo trovate sul sito wombat.noblogs.org e poi c'è il link alla diretta. Ci scrivono: siamo riusciti a votare con una legge poi dichiarata incostituzionale e saranno 10 anni che abbiamo un primo ministro non eletto da nessuno. Di che ci stupiamo? E oggi che finalmente ho un microfono tutto per me, volevo prendermi qualche secondo per ricordare le vittime invisibili di questo Io resto a casa, quindi mandare un pensiero a tutte e tutti coloro che soffrono di gravi patologie psichiche o di disabilità e anche per coloro che li assistono senza le strutture necessarie. Mandare un pensiero a tutte coloro che soffrono di sono dipendenti da sostanze e non hanno possibilità di scelta. A tutte le donne che subiscono violenza fisica e psicologica da parte dei loro conviventi, e in un momento in cui non ci sarà nessuno che le potrà ascoltare, a tutti coloro che pensano al suicidio perché depressi o inclini alla depressione, perché fragili e vulnerabili, e ai quali negare la passeggiata significa negare veramente l'ora d'ossigeno e farli metaforicamente morire, proprio come contagiati. A tutti coloro che vivono con malati terminali in casa senza poter usufruire dei normali servizi, magari da soli o con qualcuno che sta morendo, mandare un pensiero a tutti i minori e tutti i bambini che subiscono le violenze psicologiche e fisiche da parte dei loro genitori e che sono costretti a stare con loro tutto il giorno. E i genitori stessi che sfogano la propria frustrazione sui loro figli. Un pensiero anche a tutti quei conviventi che non si sopportavano già da prima e ora stanno letteralmente impazzendo, e a tutti gli amanti che sono sparsi in comuni lontani, giovani e meno giovani. Un pensiero a tutti gli adolescenti che odiano i loro genitori e che prima potevano evitare di litigare, magari proprio grazie al fatto di passarsi una giornata o una serata fuori. E poi ancora un pensiero a tutti quelli che vivono nei monolocali, senza balconi, in situazioni di disagio, in situazioni di povertà. Un pensiero agli anziani soli, che sono anche magari senza la possibilità di avere contatti con i loro stessi parenti, la cui semplice passeggiata era il solo modo di contattare un'umanità, seppure spesso distante e indaffarata. E ancora un pensiero agli ingenti, ai senza tetto, che si sono pure beccati le multe, e me l'ha raccontato una mia amica che ha visto questa scena in diretta, semplicemente perché erano in giro e non avevano una valida giustificazione. E un pensiero a tutti i carcerati, a tutte le carcerate, anche quelle del 41 bis in isolamento, perché voi vivete già così, ma vi hanno tolto anche l'ora d'aria. E quindi, insomma, mi sono presa questo microfono tutto per me, per ricordare ai governanti che il vostro "io resto a casa" forse sta uccidendo più del virus. Allora, insieme a tutte queste vittime invisibili, abbiamo scelto un tema per quest'oggi che vorremmo approfondire grazie al contributo di un carissimo amico, Bruno, che è già qua in diretta con noi, al quale do subito la parola. Mi senti, Bruno? Ciao, Bruno! Ciao, Stefania, la sento molto male. Ok, allora aspetta, nome, che... Nome in codice Carmine. Carmine! No, ma infatti è bello così, è bello. Ciao, così. Bruno! Allora, codice... Carmine! Camicia. Ok. Allora, con Bruno oggi vorremmo... Grazie Bruno. Proviamo ad approfondire il tema della vicinanza forzata e dei rischi che crea all'interno sia delle relazioni di coppia, sia all'interno delle nostre comunità, tra le famiglie, proprio tra i parenti. E proviamo insieme appunto a questo caro amico a districarci in questa questione bollente. Ma prima di tutto, Bruno, ti va di presentarti, perché non saprei davvero da dove iniziare. Molto brevemente, sono Bruno Lomele, curo una pagina Facebook dedicata alla relazione, e sono un counselor, però soprattutto ho vissuto, diciamo, delle esperienze particolari che mi hanno portato a un certo punto a scoprire un po' alcuni segreti che mi hanno funzionato, e quindi da lì in poi ho iniziato a raccontare in giro queste scoperte fatte sulla relazione che mi hanno aiutato a rasserenare i miei rapporti affettivi. Quindi questo in breve è l'unica cosa che, ecco, penso sia importante dire. Quindi hai qua prendo, rubo il microfono di nuovo a Carmine. La parola chiave quindi è relazione, e in che modo, soprattutto in questo momento, secondo te è importante, insomma, parlare di relazioni, e in che modo ne parli tu? Perché questo, insomma, ci ha stupito e ci interessa molto. Beh, io, insomma, ne parlo con un'ottica sistemica, quindi diciamo che fondamentalmente l'approccio che ho io è che i disagi, la maggior parte dei disagi, se non tutti, i disagi di relazione, di qualsiasi tipo di relazione, sia sentimentale, sia affettiva, parentale, quella che sia, i disagi di relazione dipendono per lo più da dei paradossi di relazione, da dei meccanismi di relazione. Cioè, noi quando stiamo male ci viene facilmente da pensare che siamo male per colpa di qualcosa che ci fa l'altro. Invece molte volte siamo male perché la relazione è una cosa molto complicata che molto facilmente fa stare male. E questo è l'approccio mio, cioè di andare a scoprire quali sono quei meccanismi che ci rendono così difficile poi lo stare bene proprio con le persone con cui siamo più coinvolti emotivamente. E quindi immagino che in questi momenti, poi soprattutto di quarantena, quando in tanti stanno scoprendo forse sicuramente dei lati nuovi del compagno, della compagna, dell'amico, del familiare, oppure nei momenti in cui si stanno rendendo più palesi, no? O delle difficoltà o anche invece degli accordi presi, in che modo questo approccio può aiutare, insomma, a rasserenare o comunque a approfittare di ogni situazione per superare dei limiti o dei nodi? Ecco, diciamo che appunto in questo tipo di visione, cioè appunto è evidente proprio il fatto che ci stanno alcuni ingredienti che fanno parte della relazione che alimentano al massimo grado le criticità, che sono proprio la paura. La paura è uno dei maggiori scatenatori di problemi all'interno della relazione, sia che siano paure interne alla relazione, quindi paure rispetto all'altro, a perderlo, altre cose, ma sia anche paure rispetto al mondo, perché comunque quando si ha paura emergono in maniera molto più forte le nostre reattività più viscerali, più primitive, che sono iscritte dentro di noi dall'evoluzione biologica. L'altro ingrediente terribile di una potenziale nitroglicerina all'interno delle relazioni è proprio la vicinanza. E nel mio approccio questa è una cosa un po', diciamo, particolare, un po' diversa da come spesso la si vede. Cioè, questo approccio, la vicinanza non è vista come il compimento dell'amore, ma come la sfida più grande che l'amore deve attraversare per poi compiersi. Però la vicinanza è una sfida, è una difficoltà, perché effettivamente ci sono alcuni aspetti che non sempre, di cui non sempre teniamo abbastanza conto. Il fatto, per esempio, che una vicinanza affettiva toglie spazio. E noi tutti abbiamo sia bisogno di vicinanza, di calore, di scambi di vicinanza, ma abbiamo anche bisogno di spazio e abbiamo bisogno di una libertà della nostra identità. Solo che molte volte nella vicinanza l'identità dell'altro va, quindi i suoi bisogni, il suo modo di vedere le cose, le sue convinzioni, le sue abitudini, vanno a collidere con le nostre. Quindi starci vicino non è facile, è chiaramente una cosa molto desiderata quando ci sono sentimenti forti e c'è affezione, però il fatto che sia desiderata non vuol dire che poi sia facile. In più, appunto, se aggiungiamo la paura, la cosa diventa ancora più complessa. Quindi è anche l'obbligo, l'altro aspetto è l'obbligo. Cioè nel momento in cui io sono in una vicinanza con una persona a cui voglio bene, cerco insomma, di vivere delle cose belle, però poi mi scontro con delle difficoltà, delle problematiche che sono date dalle nostre diversità. In quel momento, se io mi sento quantomeno che sto lì per scelta, potrei trovare lo spirito giusto per cercare di scervellarmi, per affrontare queste difficoltà, per cercare delle soluzioni creative, per stare bene insieme. Ma se la sensazione che ho è che sono rimasto in qualche maniera intrappolato dentro quella vicinanza, allora non riesco più neanche a trovare lo spirito giusto, lo stato d'animo giusto per affrontare quelle difficoltà. E a quel punto emerge la cosa peggiore. Cioè noi quando siamo in relazione, per via di queste difficoltà che non sappiamo bene come affrontare, a un certo punto in noi nasce l'amarezza, la rabbia, il senso di profondo dispiacere perché ci sembra che l'altra persona non sia così intenzionata a volerci bene, ad aver cura di noi. In realtà è perché è veramente difficile volersi, cioè, trattarsi bene a vicenda, avere cura l'uno per l'altro, perché tante volte io sto cercando di avere cura di te, ma non sto vedendo delle cose e quindi magari lo faccio male, faccio degli errori. Tu inizi a star male, me lo dici, però io magari non riesco a capire perché mi dici di star male. Io sto cercando di avere cura di te, sto cercando di fare delle cose belle per te, eppure non sei contento. E a quel punto iniziano dubbi, amarezze e diventa un cocktail complesso. Quindi ecco, sicuramente questa vicinanza obbligata ci sta mettendo a dura prova. Poi situazioni del genere, cioè dove c'è una grande sfida da affrontare, ci sono paure, ci stanno obblighi, e diventano degli amplificatori. Il che vuol dire che alle volte riescono a diventare amplificatori di risorsa. Quindi nelle situazioni straordinarie, come poi diceva anche Einstein, parlando proprio del valore della catastrofe, del valore della crisi, in situazioni straordinarie magari noi siamo chiamati, siamo obbligati a tirar fuori delle risorse nuove, speciali, e quindi a volte può succedere qualcosa di bello, di nuovo, di importante, addirittura insomma, delle trasformazioni importanti. Quindi grandi crisi, grandi sfide sono anche grandi momenti di opportunità, però nello stesso tempo sono anche grandi momenti di criticità, il che vuol dire purtroppo che chi ha queste risorse ce l'aveva in qualche misura accumulate da prima, a volte anche per fortuna, poi le può usare per trasformare in opportunità la difficoltà. Ma chi invece magari siamo già sul limite della resilienza, cioè il limite insomma del non farcela, la crisi ovviamente diventa una grandissima botta in più, un peso che ti tira giù. Sì, poi sono dinamiche ovviamente che tu spieghi con i tuoi seminari e insomma ci sarebbe tanto da approfondire. Carmine, la Carmine però vuole farti una domanda. Sì, in realtà, ciao Bruno, una domanda molto banale, immagino anche la risposta, ma perché conosco te e ne abbiamo parlato a lungo, però mi metto nei panni magari di chi non ha approfondito l'argomento. Banalmente, in questa quarantena, ipotizziamo una coppia a due, una partner ha tanta voglia di silenzio, introspezione, isolamento, l'altra desidera smaniosamente cure, attenzioni, calore, abbracci. Che fare? Domandone. Non c'è niente di autoreferenziale, ovviamente. Normalmente. No, è una domanda giusta, appunto. Io nella mia pagina su Facebook, L'amore amorevole, scrivo proprio delle cose anche un po' più specifiche, più tecniche. È chiaro, adesso ho fatto un discorso estremamente generale. La tua domanda mi porta a qualcosa di concreto. Esatto, io parlavo, no, prima, due identità che hanno delle diversità, e queste diversità in alcuni momenti, nella vicinanza, collidono. Esattamente, per esempio, la diversità di cui hai parlato, una diversità di cui hai parlato tu. Io le chiamo, diciamo, diversità prossemiche, nel senso di c'è un momento che uno dei due ha un desiderio dell'altro, ha un desiderio di vicinanza, e invece in quel momento l'altro ha un bisogno di spazio. Ovviamente il problema esiste, cioè non è così semplice, proprio perché nella diversità tutte e due i bisogni sono legittimi. Non si può dire, no, uno ha ragione, l'altro ha torto, e uno quindi dovrebbe sacrificarsi per l'altro, anche perché il sacrificio in una relazione non è mai una cosa buona, perché prima o poi la si paga, un sacrificio prima o poi viene messo in conto. E quindi la diversità è problematica. Adesso non posso parlare subito di un tale livello di problematicità, però mi preme dire una cosa prima, cioè il fatto di dire ci stanno delle cose che questa problematicità la portano a un massimo livello dove a quel punto diventa davvero irrisolvibile. E cioè il problema è il fatto che su una diversità concreta, di un bisogno concreto, poi noi, come essendo esseri umani, tendiamo a cercare dei significati. Quindi che succederà? Che è molto facile che la persona che voleva vicinanza e non la sta ricevendo, si inizierà a temere che ci siano significati di relazione del tipo di poco amore, rifiuto, disattenzione, non gratitudine, perché la persona che in quel momento vorrebbe vicinanza sicuramente l'ha data in passato e sicuramente in alcuni momenti ha sentito di dedicarsi all'altro, in qualche misura di dedicarsi all'altro. Quindi inizierà a dire: ma come? Proprio quando io ho bisogno di te, proprio quando io voglio una vicinanza con te, tu dici che mi ami, se tu invece non mi vuoi vicino, allora questa cosa mi sembra molto strana e lì aumenta la paura di essere rifiutati, di non essere amati. E dall'altra parte succede una cosa speculare ma diversa come posizione, quindi succede che la persona che ama, nel senso sicuramente i suoi sentimenti ci stanno e sono sinceri, ma questo non c'entra nulla con il bisogno di vicinanza o di spazio in un preciso momento, perché per dire anche una cosa semplice, può essere semplicemente che io ti amo tantissimo ma sono in quel momento stressato. Ti amo tantissimo ma sono nervoso per delle cose mie, ti amo tantissimo ma per esempio vivo un senso di claustrofobia perché sono chiuso dentro e una, no, immaginate una persona che soffre di claustrofobia, per esempio rimane chiuso dentro l'ascensore con un altro, immaginate che alla paura della claustrofobia si aggiunge il fatto che l'altro gli si appiccica addosso e gli toglie l'aria. Che brutta scena. Per dire che ci sono delle ragioni personali che non c'entrano nulla con i sentimenti per l'altro, ma c'entrano con come mi sto sentendo io in quel momento e magari ho bisogno di aria, ho bisogno di spazio, ho bisogno di dedicarmi a una cosa mia. Che succederà? Che anche chi paradossalmente riceve richieste di vicinanza non volute non si sentirà poco amato. Perché si sentirà usato, si sentirà che dice ma scusami, ma se tu mi ami dovresti in qualche modo anche stare in contatto con i miei sentimenti, rispettare i miei sentimenti. Se io ti sto dicendo che ti amo, ti voglio bene tutto quello che vuoi, ma in questo momento ho bisogno di stare un po' per conto mio e tu insisti lo stesso, allora io non sono il tuo amore, sono il tuo cibo, nel senso che tu hai un bisogno e vuoi soddisfarlo con me. Quindi il paradosso è che tutti e due rischiano, solo perché c'è una diversità di sentire, di bisogni momentanea, ma che non è una diversità grande, cioè quelle due persone si vogliono bene, sono ben disposte in generale l'una con l'altra, però se in quel momento preciso c'è un bisogno, io li chiamo avversativi perché è un bisogno incompatibile, o è contento uno perché si starà distanti, o è contento l'altro perché si starà vicini. Quindi c'è un bisogno divergente, ma incompatibile. In quel momento per un bisogno incompatibile che riguarda solo la diversità di stato d'animo momentaneo di quelle due persone, le due persone potrebbero scivolare in un dolore di relazione affettivo molto più profondo, cioè scivolare entrambi nella ipotesi sbagliata che sono voluti poco bene. Quindi non dico risolvere poi il problema, perché quello è più complicato della diversità, magari posso dire una piccola cosa di consiglio dopo, però diciamo capire che risolvere il problema di quando abbiamo due bisogni diversi, incompatibili, è sempre un po' complicato e bisogna metterci molta creatività. Però se poi noi stiamo facendo una lettura affettiva erronea su quello che sta accadendo, è la volta che andremo in un dolore, in una paura, in un conflitto enormi che invece nascono in qualche misura da un equivoco. Certo. Fino a qui ero comprensibile. Sei stato super comprensibile. Grande Bruno. Piccolo consiglio. Aspettiamo i consigli, poi possiamo rimandarla tra un paio di minuti, così ti faccio un'altra domanda nel mezzo. Certo. Qui stavi parlando di coppie e quindi e delle differenze nell'ambito di coppia. Però prima di arrivare proprio ai consigli, volevo chiederti quando invece stiamo, cioè sono applicabili queste dinamiche, queste pratiche, questi concetti a un ambiente in cui ci sia una comunità, quindi magari si parla sempre di amore ma più nell'aspetto della fratellanza e della sorellanza, e semmai se ci sono delle differenze e quali consigli dai appunto creativi a una coppia ma anche se è applicabile a una comunità che in questo momento sta vivendo, eterogenea ovviamente, che in questo momento sta vivendo molto più vicina rispetto a prima. Sì, guarda, quello che stavo dicendo, diciamo, naturalmente in una coppia è al massimo grado, però no, per me non era un discorso che riguarda solo la coppia. riguarda qualsiasi forma di vicinanza, naturalmente in qualsiasi relazione dove ci sia un coinvolgimento emotivo di un qualche tipo, ma a volte c'è anche un coinvolgimento tra amici, oppure naturalmente c'è un coinvolgimento emotivo ed esistenziale, nel senso che c'è magari uno dei problemi fondamentali della relazione è il fatto che bisogna prendere decisioni nella vita in comune che si sta facendo. Questo vale per genitori figli, vale per amici, vale per persone che condividono una comunità progettuale, vale per partner. Bisogna prendere delle decisioni, e il problema più grosso della relazione affettiva, che è appunto un problema oggettivo, sistemico, non riguarda il carattere delle persone, è il problema che a volte noi vorremmo prendere due decisioni diverse, invece non siamo d'accordo. Il problema è che non c'è più nulla, quando io sto condividendo una vicinanza importante con qualcuno, non c'è più nulla che io posso decidere davvero da solo, perché qualsiasi cosa mia, pensiamo in una casa magari piccola, dunque non perché ci sta qui per fortuna sua, magari fa la quarantena in ville con 12 stanze, ma c'è chi vive in un appartamentino con un bagno e anche soltanto a quel punto occupare quel bagno diventa un affare di famiglia, diventa un problema grosso. Quindi non c'è più nulla dentro una grande vicinanza che io possa decidere completamente da solo, perché tutto ha ricaduta sugli altri. Quindi questo è un problema oggettivo della relazione, che riguarda tutte le relazioni. Quindi anche quello che stavo dicendo prima, per esempio il fatto che una madre vorrebbe stare in quel momento vicino al figlio, perché ci sono tanti modi di volergli stare vicino, perché per esempio stare vicino al figlio può significare voglio che tu faccia i compiti. Quello la madre non se ne accorge, ma è una sua esigenza in quel momento, ed è quindi sta chiamando il figlio ad un noi che sta decidendo lei. Può essere fare i compiti, o può essere fare un bellissimo gioco che ho visto su internet, o può essere qualsiasi cosa, perché magari quella mamma ha visto su internet un modo di far giocare i bambini che trova molto creativo, molto utile al loro sviluppo cognitivo, motorio, eccetera, eccetera, e quindi ha deciso di giocare col bambino, poi di fare una crostata con la figlia. Quelli sono tutti noi, sono tutte vicinanze. Se magari la mamma va dalla figlia che sta giocando con le bambole e gli dice facciamo questa bella crostata perché è bellissimo imparare a cucinare insieme e manipolare la farina, bisogna vedere se la figlia preferiva giocare con le bambole o fare la crostata. E questo è un esempio in cui abbiamo comunque due diversità degne entrambe di pieno rispetto, due esseri sacri, inviolabili e insondabili che, ahimè, sono finiti dentro un bisogno avversativo. Uno vuole una vicinanza, l'altro vuole lo spazio, cioè vuole dire grazie, preferisco fare questo gioco con le bambole dove tu non ci sei, non è un noi con te, è un mio gioco con le bambole, preferirei continuare a giocare alle bambole. In quel momento non ci accorgiamo che molte volte, quando impattiamo su una diversità, molto spesso dentro di noi scatta in automatico un tentativo di risolvere la diversità con una pressione, e iniziano degli inconsapevoli bracci di ferro. E questo vale per genitori figli, ma vale anche per esempio per una comunità. Ti dico solo questo e poi così magari possiamo mettere la musica, no? Però solo per mancano i consigli, poi i consigli pratici. E anche sapere dove possiamo continuare a seguirti e dove ti possiamo trovare. Ok, grazie. Allora, un attimo sto dicendo, diciamo, adesso non è facilissimo dare grandi consigli risolutivi, ma già avere attenzione ad alcune criticità può già aiutare, perché a volte finiamo dentro delle morse relazionali che fanno aumentare moltissimo la fatica, il dolore, la paura e la claustrofobia, e quindi poi dopo si va in una escalation di tensione. Quindi già soltanto dire attenzione, ci sanno che c'è l'unicità, attenzione, se tu mamma vai a parlare con tua figlia, non partire dal punto di vista semplicemente che fare la crostata è oggettivamente una cosa meravigliosa e che perché non lo capisce mia figlia, oppure preferisce stare col telefonino o con un'altra cosa. Io poi posso fare ovviamente un'azione educativa e devo fare come genitore delle azioni educative, però è importante che anche quando faccio un'azione educativa, cioè dico no, telefonino, 8 ore al giorno, 8 minuti al giorno, oppure non si fa, ognuno ha le sue, ovviamente i suoi criteri, però una cosa è se faccio un'azione educativa avendo comunque attenzione e cura del fatto di dire sì, comunque siamo due diversità e io sto imponendo il mio sistema di valori sul tuo. Poi a volte lo devo fare, non ho uno scampo perché per genitore lo devo fare per forza, però sapendolo con attenzione, cioè sapendo comunque io ti sto facendo un'imposizione del mio sistema di valori sul tuo. Quindi magari cerco di fartela con più dolcezza, cerco di fartela con un'attenzione, magari con un po' di flessibilità, insomma in qualche maniera cerco di attenuare l'impatto. Invece se non ho queste attenzioni rischio che mi arrabbio, mi amareggio perché dico ah ma come, perché mia figlia poi mi mette il muso se io gli tolgo il telefonino e la costringo a fare la crostata. Quantomeno non bisogna stupirci del fatto che la figlia si mette il muso. Poi magari la tratto bene, alla fine la coinvolgo con la crostata e alla fine siamo tutti felici. Ma la chiave importante è che non deve succedere che io mentre faccio questa cosa poi mi arrabbio perché mia figlia c'è il muso. Perché allora lì non sto considerando abbastanza la diversità, non sto considerando che lei ha pure il diritto di voler fare una cosa diversa, cioè che è normale quantomeno. Per quanto riguarda le comunità c'è questo stesso problema molto forte, cioè noi non ci accorgiamo che tanto più nei momenti di paura, questo è un discorso molto importante su tutto il discorso del coronavirus in generale, noi nei momenti di paura abbiamo bisogno di riacquisire controllo, perché non c'è nulla che ci terrorizza di più di avere contemporaneamente paura e assenza di controllo. Cioè sono non solo ho paura perché sento dei pericoli, ma mi sento anche che non posso decidere, che non ho controllo. Questo fa sì che nei momenti di paura, nei momenti primordiali, creino un rinforzo di un arroccarsi sulle proprie convinzioni più salde. E però questo spessissimo poi diminuisce le possibilità di dialogo e alimenta le possibilità di scontro, perché io sono A e mi sto arroccando sulle mie convinzioni più salde, tu sei B e ti stai arroccando sulle tue che magari sono diverse dalle mie, e questo succede appunto anche in una vita di comunità. Se noi non recuperiamo una relatività delle nostre convinzioni, una comprensione del fatto che io non posso usare un criterio ed applicarlo a due teste, e questo è un approccio pseudo-oggettivo, lo chiamo io, cioè io penso di avere una verità oggettiva e cerco di applicarla su di te e vorrei che tu la accogliessi. Dovremmo imparare di più un approccio intersoggettivo, cioè dove io porto il mio criterio con la mia testa e cerco insomma di interagire con te che hai il tuo criterio con la tua testa, e so che non è detto per nulla che il mio criterio sia più oggettivamente migliore del tuo, quindi devo trovare un dialogo, devo trovare assolutamente il modo di trovare delle soluzioni creative fra diversità. Quindi cambia un po' il tipo di atteggiamento e io penso che questo sia un problema grossissimo di questo momento e in generale dei momenti di paura. Beh, sei stato molto chiaro, Bruno. Aspetta, c'è anche la Carmine. Intanto, Bruno, ti ringraziamo tantissimo per il prezioso tempo che ci hai dedicato. Sappiamo che sei molto impegnato perché segui costantemente relazioni in difficoltà. E poi sentiamo le figlie che giocano e che fanno la crostata. Che magari hanno anche fame, ma prima di lasciarti a proseguire la cena... Un'ultima cosa, ci tenevamo a chiederti se ci puoi lasciare un po' di contatti per continuare a seguire insomma, i tuoi temi, le tue tematiche e le cose che proponi. Grazie Bruno. Grazie, guarda, i contatti sono fondamentalmente due, c'è un sito che si chiama relazioneamorevole.it e dove poi mi si può contattare lì e si possono leggere insomma alcuni, adesso è appena cominciato il sito, quindi è tutto in fattura, però insomma lì ci stanno i contatti e si possono iniziare a leggere alcune delle cose che scrivo. Se no invece è molto più ricco di contenuti per ora la pagina Facebook, che si chiama invece L'Amore Amorevole, quindi il sito è relazioneamorevole.it, invece la pagina Facebook è L'Amore Amorevole, e lì ci stanno tantissimi contenuti, alcuni più diciamo suggestivi e alcuni invece molto anche tecnici, quindi anche consigli, anche cose pratiche. E poi soprattutto sto facendo dei seminari online in questi momenti, in questo periodo, dove appunto approfondisco tutti questi temi attraverso però insomma un lavoro online, quindi raggiungibile da tutti. Queste due pagine, questo è appunto il sito e la pagina, sono anche il posto dove potermi contattare. Perfetto Bruno, noi continueremo a seguirti come sempre e se ti va di presentare il brano che hai scelto e di spiegarci perché. Avete preso la versione? Nature Boy, la versione credo non live, ho visto c'era anche una... Non lo so che versione era, sai. Dei Pomplamoose, va bene. Comunque, diciamo, la canzone, sì, io certo. Sono molto innamorato di questa canzone, si chiama Nature Boy, ed è, insomma, mi piace moltissimo il testo ed è importantissima, più che altro, la frase finale, che sembra veramente insomma, una dichiarazione della relazione amorevole, perché, insomma, praticamente la sentirete in inglese, cioè, si dice... alla fine, che è la cosa più importante, che poi imparare, quindi questa è la chiave importante, la cosa da imparare, la cosa più importante che puoi imparare nella vita è ad amare ed essere amato. Quindi anche se mi piace questa canzone, non so se avete trovato poi la versione che piace a me, che è un po' fredda. Sì, abbiamo, mandiamo quella lì. Originale. Sì, assolutamente. Bruno, grazie mille, ti vogliamo grazie tanto Bruno. Bene, ci sentiamo presto in privé. Grazie, un bacio. Ciao, buon appetito a tutta la famiglia. Ciao Bruno. Invitiamo grazie, tutti a seguire grazie. I seminari di Bruno, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. There was a boy. Very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, magic day, he came my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to in return. Che belle le parole di Nat King Cole, che belle le parole di Bruno sull'amore amorevole. Io non avevo riacceso i microfoni, quindi sicuramente non mi si poteva sentire. Sotto un buon tappeto degli Antibalas, un po' di funky, aspettando Carmine che tornasse dai suoi affaracci, ma è qua. Eccomi. Che bello, che bello avere due microfoni. Prendiamo la doccia di Carmine, che dopo due settimane si è fatta la doccia. Ma sì, ma tanto. Il profumo di violette. E non parliamo dell'ultima volta che ti sei depilata. Quella è lontana, già dimenticata. Oggi invece di scrivere naturopata ho scritto naturopotata. WhatsApp mi ha trasformato naturopata in naturopotata, e che ho trovato una definizione bellissima per questi momenti. Io avrei bisogno di una naturopotatura. Eccola qua. Allora, torniamo negli studi della Val di Susa di Wombat in direttissima. Ciao Wombati, ciao Wombate. Ricordiamo Radio Wombat, Radio Fiorentina, autogestita, con ormai emissione direi praticamente nazionale tramite lo streaming. Questa puntata sarà riascoltabile da stanotte o domani mattina, dipende quando avrò voglia di caricarla, sempre sul sito wombat.noblogs.org, in podcast. Seguite tutti i giorni dalle 19 alle 21 le dirette, sono molto interessanti, tutte solo e sempre ovviamente sul coronavirus, che è l'argomento del terzo millennio ormai. Doppie voci, ma un solo pensiero. Cioè, è un solo microfono? No, cioè, è una sola bottiglia di vino. Si va avanti con gli argomenti iniziati sempre settimana scorsa sulla scuola. È un tema, oltre a quello della salute, oltre a quello della politica, oltre a quello dell'ambiente, che insomma sta uscendo tanto ovviamente, tutte le problematicità sia nei confronti dei professori e dei supplenti, come abbiamo visto nel comunicato che abbiamo letto martedì scorso. Più che altro nella telefonata in diretta di Lorenzo, giusto Camicia? Esatto, e poi nella telefonata che ha confermato che ci sono preoccupazioni nell'ambito scolastico di questa presunta non proroga dei contratti per i supplenti fino a giugno. Nonostante il fatto che i supplenti si siano ovviamente già trasferiti da regione a regione per coprire le cattedre, quindi esatto. Ora si ritrovano nella regione ancora, ma di non residenza a pagare affitti eventuali senza però la sicurezza del lavoro. Esattamente, e speriamo ovviamente che questo non sia poi fatto passare in modo così non ufficiale, ma che non diventi ufficiale. Da qui però passiamo all'altro argomento scolastico, ovvero le tele lezioni, la teledidattica online, che sta facendo emergere diverse perplessità, ma soprattutto non sembra essere chiaro il programma da parte del governo su come organizzare ovviamente le lezioni nelle scuole nei prossimi mesi. Non viene detto assolutamente nulla, non si sa se verrà fatta a distanza, quanto verrà fatta a distanza, se metà saranno a distanza e metà no. Insomma, non ci sono ancora idee chiare. Nella task force non c'è nessuno che parli di scuola, e quindi insomma veramente le preoccupazioni cominciano a, oltre a serpeggiare, cominciano proprio a entrare nel profondo non solo degli addetti del settore, ma poi di tutti i rami della società. Ad oggi, e lo dico in qualità di insegnante, le dirigenti scolastiche ci stanno comunicando che a settembre molto probabilmente, chiaramente la conferma non dipende dai dirigenti ma dipenderà poi dal governo, speriamo a breve, a settembre probabilmente ci sarà un inserimento parziale, nel senso che alcuni alunni, quelli più in difficoltà con i mezzi tecnologici, saranno invitati fisicamente a scuola a partecipare alle lezioni in classe, mentre coloro che dispongono dei mezzi invece resteranno a casa utilizzando la didattica a distanza. Questo per garantire il distanziamento e rispettare appunto il metro di sicurezza. Oggi abbiamo preparato una breve lettura presa proprio da una lettera scritta da insegnanti e genitori, proprio partita da Firenze, ma comunque che sta circolando in tutta Italia, diretta proprio alla ministra dell'istruzione. Questa lettera che ora vi leggo, Azzolina, e sottoscrivo soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età dei più piccoli, le elementari, che non sono un momento scolastico ancora propizio per il nozionismo, ma più che altro nella scuola primaria si lavora sul gruppo, sulla comunità, sulla solidarietà, sulle differenze, sulla condivisione. È questo che viene fatto in questo primo percorso scolastico. per cui chiaramente proibire ai bambini la possibilità di stare insieme distrugge tutta l'evoluzione pedagogica propria di questa facilità. Però al di là dei commenti personali, leggo la lettera in questione. Se mi dai un secondo, io metto uno strumentino musicale. Vai. Così uso un po' questa tasterina. Faccio una base, e Camicia. Vi faccio una basettina un po' come la vuoi, ma l'organo un po' jazz. Facciamola allegra a questo allegra. Punto. Allegra, vai. Allora, egregia ministra Lucia Azzolina, siamo un gruppo di genitori con figli di varie età, scolare, prescolare, di insegnanti, educatori e operatori della scuola, di professionisti che hanno deciso di interpellarla proprio direttamente. La scuola è stata la prima a chiudere e sembra destinata a essere l'ultima a riaprire, senza clamore, come se si trattasse di questione marginale di fronte alle necessità di far ripartire il paese. I bambini, tutti minorenni e i loro diritti, sono stati ignorati durante tutta la fase emergenziale delle istituzioni e presi in considerazione solo dopo vibranti proteste e mobilitazioni. Mentre il primo ministro Conte comincia a presentare un'ipotesi di riapertura graduale delle attività lavorative e a parlare di ripartenza, manca una chiara informazione istituzionale relativa a condizioni, termini e modalità di riapertura delle scuole. Noi genitori e insegnanti siamo costretti a fare affidamento a voci che paventano non solo la riapertura della scuola unicamente a partire da settembre, ma addirittura una riapertura esclusiva o parziale a distanza. Non si può quindi sottovalutare il problema e non pensare alle enormi conseguenze che questo avrà sui minori e sull'organizzazione delle famiglie. A oggi riteniamo che un mese e mezzo, ormai due, di chiusura della scuola abbia chiaramente dimostrato che c'è un'impreparazione digitale di docenti e alunni, una mancanza di infrastrutture pubbliche adeguate e di connessioni domestiche, nonché una totale disomogenea distribuzione tra la popolazione dei dispositivi necessari, una inadeguatezza dell'insegnamento a distanza. Inoltre dobbiamo assolutamente registrare che il primo risultato della didattica a distanza è confermare e approfondire le distanze sociali, economiche e culturali, in evidente contraddizione con la Costituzione italiana. L'articolo 3 impegna la Repubblica a rimuovere le disuguaglianze, che ci sono gravi e incontestabili conseguenze prodotte dal venir meno della scuola come luogo materiale dei rapporti umani tra coetanei, adulti e ragazzi, che asili nido e scuole dell'infanzia, che non possono ricadere sotto la voce didattica a distanza, ma sono tuttavia servizi essenziali, sono usciti del tutto dalla discussione pubblica. E nonostante gli ammirevoli sforzi compiuti dalla grande maggioranza delle persone coinvolte, insegnanti, studenti, educatori e genitori, la didattica a distanza non può essere considerata altro che una soluzione di pura emergenza, e riteniamo che non sia accettabile prolungarla oltre l'estate, a meno che non ci siano evidenze scientifiche tali da costringere a tenere chiuse tutte le attività, che siano esse economiche, sociali, culturali, sportive o scolastiche, appunto. La didattica a distanza non può e non deve sostituire la scuola, per quanto si possano discutere sfumature e specificità, questo è ovvio. E questo vale per tutti gli ordini e gradi di istruzione. Per i gradi della scuola dell'obbligo, poi, l'unico risultato certo è lasciare ancora più indietro ampie fasce della popolazione. Inoltre, la didattica a distanza non è idonea in assenza di un sostegno adeguato da parte di un adulto, almeno per le fasce di età dei bambini più piccoli e per i bambini con difficoltà di apprendimento. Infine, la scuola dell'infanzia e primaria sono istituzioni educative che strutturano un primo fondamentale momento di relazione sociale, continuativa e organizzata fra gli esseri umani. A questa esperienza formativa di socializzazione è stata sostituita la solitudine della didattica e dell'apprendimento a distanza. Ciò significa privare le nuove generazioni di questo insostituibile patrimonio di educazione alla socialità, alla cittadinanza, e può essere tollerata solo come extra ratio temporanea, non di più. Non è possibile considerare come unica soluzione quella della didattica a distanza, senza peraltro considerare adeguatamente le ricadute sulla vita dei minori e delle loro famiglie, e senza considerare le problematiche organizzative di gestione che questa genera. Riteniamo tutto ciò gravissimo, tanto più se, guardando gli altri paesi con numeri simili ai nostri in termini di contagio e di decessi, si scopre che per loro la scuola è, insieme ad altre, una delle priorità, tenendo anche conto che sono ormai molti gli studi scientifici che attestano la sproporzione tra i vantaggi di un lockdown prolungato e i danni e rischi che può produrre sulla popolazione e in particolare su bambini e adolescenti. In conclusione ci rivolgiamo a lei, Ministra Azzolina, affinché si lavori da subito per costruire un piano per la riapertura di asili e scuole che sia adeguato ai bisogni dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, che sono tra i soggetti più fragili in questa emergenza sanitaria e a sostegno delle famiglie e dei genitori. Vai con un brano, non ci pensiamo più, Camicia. Grazie per questa base. E come ogni martedì le riciclette con noi in diretta, bravissime ragazze. Davvero, davvero, davvero brave. Bravissime, davvero brave e bravissime. Volevo ricordare che per poter sottoscrivere la lettera mandata per il ministro potete scrivere a bambinidimenticati@gmail.com. Presto cercheremo anche di organizzare un'intervista con chi l'ha scritta per approfondire l'argomento. Beh, siamo già arrivati in realtà a fine e il pesce è lì che sfrigola. Si riesce a mandare quel pezzo che ci hanno richiesto in diretta? Assolutamente, lo manderei direttamente come ultimo brano, è stato scaricato ad limitum sclerando. Grande camicia. Pat, sta arrivando il tuo brano, aspettaci. Grande Pat. Beh, salutiamo di nuovo tutto, salutiamo la comunità di resistenza contadina Geron La Ronze, domani ascoltateli sempre su Radio Wombat in una trasmissione che si chiama Radio Contado, al suo secondo anno di trasmissione, dalle 2:30 alle 4:30, e come tutti i giorni le dirette. Mi raccomando, sostenete, supportate la radio, un elemento, uno strumento, una risorsa incredibile in questi, soprattutto in questi momenti in cui il contatto fisico non è pervenuto. Mi raccomando, la radio da retta ai Wombat, e soprattutto ascoltiamo, chiudiamo, teniamo gli occhi un pochettino chiusi e apriamo le orecchie. Domani ci trovate con il podcast, domani mattina sul sito di Wombat Radio, e vi salutiamo con un po' di musica che oggi ce n'è stata poca. Vai, andiamo con gli Aria, evviva evviva. Lasciamo la linea alla Garota, un po' di tango fino a notte fonda tra circa 7 minuti, quindi nel frattempo lo occupiamo con un po' di musica e con un paio di spottini Wombat, come sempre. Per te Pat e per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, gioia e rivoluzione degli Area. Ciao ciao, al prossimo martedì, buona. Canto per te che mi viene a sentire. Sai sognare, suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Thank you. Wombat. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat.